degno, sola non sei nel sospirar. Purtroppo sospiro anch'io senza speranza e pena, e da mille tormenti oppresso langue il mesto cor nel seno.